Ti faccio la rima? Cara la mia Deborina, sentiamo. Sarebbe magra senza farina la nostra cucina. Cabarettista, comico, ma anche formatore, Enrico Bertolino, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi, è un bellissimo epitafio che mi avete fatto da vivo. Quando son su pago la tarsù, quando sono in allegria paghi la tia, quando sono in pari pagherò la tari. Tari, tari, amici miei, con Imu e Yuk sono già ciuc, la tia per mia zia, la tari ci brucia i denari. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Come sapete, milioni di famiglie italiane rischiavano di dover cominciare a pagare la tassa sulla casa se non venivano introdotte le detrazioni, quindi è stato stabilito che appunto per ciascuna tipologia di immobile vi sarà quella flessibilità dello 0,8 per mille, che l'incremento deliberato dovrà andare appunto per la totale detrazione appunto della tassa, quindi una tassa che andrà regolata nella sua modulazione delle detrazioni da parte dei sindaci, come è giusto che sia, perché sono in grado così di renderla più equa e più flessibile. E a parte i miei scioglilingua iniziali, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, eccola qui, l'avete sentita, annunciata venerdì scorso dalle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio. Finalmente ne sappiamo qualcosa di più, in realtà questa affermazione avrebbe bisogno alla fine di un punto di domanda. Circa due mesi dall'annuncio della correzione per il nuovo tributo sui servizi indivisibili, la famigerata TASI, e con un cambio di governo intervenuto nel frattempo, nel decreto legge Omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri settimana scorsa è stato deciso l'intervento che potranno effettuare i sindaci su questo tributo. L'avete sentito proprio dalle parole di Del Rio, potranno aumentare dello 0,8 per mille le aliquote. Con una condizione però, devono destinare il gettito ad un sistema di detrazioni, e fin qui tutto più o meno chiaro. Ma le famiglie sono già in grado di capire o conteggiare quanto dovranno pagare? E sì, perché ora il provvedimento del governo deve tradursi in decisioni locali e quindi la patata bollente passa in mano ai primi cittadini d'Italia. Allora, io oggi sono sola, ma Nicoletta Carbone mi ha raccomandato di mandare un messaggio ai sindaci. Mettetevi la mano sul cuore, cercate di non approfittare di questa facoltà che vi dallo Stato di operare questo aumento, perché già le famiglie sono abbastanza stremate. Però i conti non tornano, lo sappiamo bene, molte amministrazioni saranno costrette a chiedere invece ai cittadini di mettere le mani al portafoglio. E allora, chi, come, dove, quanto pagheremo, quando conosceremo l'importo? Staremo in un limbo per molte settimane, come è successo a gennaio con la mini IMU? Buongiorno a Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore. Buongiorno. E buongiorno anche a Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio 24. E a proposito di radioascoltatori, subito a loro la nostra convocazione, anche se non siamo a tutti convocati con Carlo Genta e Pierluigi Pardo, la nostra convocazione è 800 24 00 24. Raccontateci se vi manca qualche pezzo di questa nuova TASI, avete capito il meccanismo di calcolo, secondo voi come si muoverà il vostro sindaco. Se non avete tempo e modo di chiamarci, potete scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo di posta cuoredenari@radio24.it. Siamo su Twitter, siamo su Facebook, non vi possiamo sfuggire. Subito Francesco da Vicenza scrive un messaggio sulla TASI semplice: non si calcola niente perché non si paga niente, abbiamo già dato troppo. Su quest'ultima parte della frase possiamo anche essere d'accordo, sulla prima non tanto, perché invece il nostro impegno lo dovremo rispettare. Allora Cristiano, ci vuole subito un piccolo vademecum, un ABC, perché anche se ormai tutti ne avranno sentito parlare, forse vale la pena fare un punto e dare una definizione chiara della TASI. Parliamo della tassa sui servizi indivisibili. Ma di che cosa stiamo parlando? Che cosa sono questi servizi indivisibili? Ma allora, i servizi indivisibili sono tutti quelli che i comuni non riescono a far pagare a chi ne beneficia direttamente. Cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio l'illuminazione pubblica, la pulizia delle strade, il mantenimento dei giardini pubblici o ancora tutto il servizio della polizia municipale, per fare un altro esempio. Il discorso però è che sulla TASI bisogna un pochino sgombrare il campo dagli equivoci, perché è una tassa sui servizi indivisibili, d'accordo, ma a tutti gli effetti è una addizionale dell'IMU. perché alla fine ha la stessa base imponibile, avrà un'aliquota diversa, avrà delle detrazioni diverse, ma di fatto si applica sullo stesso valore catastale su cui si applica questo anche questo parallelo. Il Sole 24 Ore l'ha fatto più volte, per la verità, sì. E poi bisogna dire una cosa che non è ancora chiarissima, cioè che fine fa l'IMU rispetto alla TASI. Allora, se parliamo di abitazione principale, la classica prima casa come viene comunemente chiamata, allora qui nel 2014 paghiamo soltanto la TASI. Se invece parliamo degli altri fabbricati, allora come ad esempio seconde case, negozi, capannoni, uffici, magazzini e così via, qui si paga l'IMU e in aggiunta la TASI. E questo è un punto importante, perché poi il decreto che è stato varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e che dovrebbe andare oggi in Gazzetta Ufficiale o al più tardi domani, quindi con un certo ritardo. Quindi siamo proprio sul pezzo, ottimo. Esatto. Ecco, questo decreto dà ai sindaci la possibilità di aumentare le aliquote della TASI, ma bisogna tenere conto che per sia l'abitazione principale che gli altri fabbricati l'aliquota massima è data come somma di IMU e TASI. Ovviamente nel caso dell'abitazione principale l'IMU non ce l'abbiamo detto prima, ma nel caso degli altri fabbricati c'è un totale di IMU e TASI che i sindaci non potranno superare. Certo, no, e che ci fa capire che quindi la TASI è un'aggiunta dell'IMU. Infatti, per l'abitazione principale si paga solo la TASI, ci dicevi, questo certo. Messaggio è chiaro. Sì, questo avremo è chiaro. Un codazzo di mini TASI a gennaio dell'anno prossimo? Credo di no. Credo di no, però non sarà tanto facile capire rapidamente quanto dovremo pagare, perché come dicevi giustamente prima, tocca ai sindaci, l'ha detto anche il sottosegretario Del Rio, tocca ai sindaci modulare il tributo e hanno dei margini di manovra molto più ampi di quelli che avevano con l'IMU. Per intenderci, noi sull'IMU abbiamo imparato negli ultimi due anni che c'era questa detrazione di 200 euro uguale per tutti, poi aumentata di 50 euro per ogni figlio. Adesso si formerà un mosaico italiano. Adesso vedremo cosa decideranno i singoli comuni. Già qualche orientamento, qualche sindaco si sta già muovendo, ha già lasciato capire le sue intenzioni? No, al momento no, ma anche perché appunto siccome c'è molto più margine di manovra, nulla vieta ad esempio che la detrazione sia legata al reddito del proprietario. Cosa che invece non succedeva con l'IMU. E poi abbiamo anche una grossa variabilità in tema di date di pagamento. Bravo, allora aspetta, non alziamo il velo su tutti gli aspetti, okay. Questo mi sembra molto interessante, perché già gli ascoltatori, è proprio questo l'aspetto principale che stanno sollevando. Intanto i comuni manderanno i bollettini con l'importo, ci dovremmo arrangiare tutti quanti per farci il calcolo? Lo capiremo tra un attimo. Intanto ricordo ancora che potete prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, scriverci al 349 238 6666. Tra le altre novità, perché Cristiano, ti chiedo, come ho letto dai giornali in questi giorni, che per passare dal vecchio al nuovo sistema di tassazione i comuni vanno indennizzati dallo Stato? Perché cosa cambia? Cambia che vanno in qualche modo a guadagnare meno, a riscuotere meno dai cittadini, e se non ci fosse questo indennizzo dello Stato i comuni non riuscirebbero a chiudere i bilanci. Questo è il punto, perché l'IMU sull'abitazione principale valeva circa 4 miliardi, la TASI, così come è stata disegnata, senza gli aumenti che però devono dare alle detrazioni, non arriva a 4 certo. miliardi, e quindi i comuni hanno bisogno di un surplus che in questo caso gli mette lo Stato. E allora ritorniamo al solito tantam degli ultimi due anni. La cancellazione dell'IMU è stata veramente, come dire, una fonte di generazione di tanta confusione, perché questo possiamo dirlo, no? Mi pare di capire, perché se poi dobbiamo riparlare di nuovo non solo dell'introduzione della TASI che sostituisce parzialmente l'IMU sull'abitazione principale, ma anche questo sistema di indennizzi. Eh sì, possiamo fare la storia se vuoi. 2011 c'era l'ICI e non l'abbiamo pagata sull'abitazione principale. 2012 abbiamo pagato l'IMU. 2013 l'IMU è stata, tra virgolette, superata, cioè è stata prima sospesa, poi è stata definita, deliberata la sospensione, esatto. E poi sospeso cancellata. No, poi è stata cancellata, ma solo ad aliquota base, quindi in tutti i comuni che erano circa 2400 in cui c'era un'aliquota più alta si è andati a pagare la mini IMU. Adesso nel 2014 l'IMU non c'è più sulla prima casa, ma c'è la TASI che ha la medesima base imponibile, un'aliquota che potrà essere al massimo del 3,3 per mille anziché il 6 per mille dell'IMU, ma non ci saranno le detrazioni, o meglio, non ci saranno quelle detrazioni che c'erano con l'IMU. La TASI senza detrazioni può arrivare fino al 2,5 per mille, Poi oltre, se i comuni fanno quel salto in più e arrivano fino al 3,3 per mille, quel differenziale di 0,8, ci dice il governo, lo devono usare per finanziare delle detrazioni. E come dimostreranno che finanzieranno queste detrazioni? Come li monitorerà lo Stato, i sindaci? Ah, qui diventa una cosa molto complicata. Questo è il vero punto debole di tutta l'operazione. Perché anche noi come cittadini contribuenti abbiamo il diritto di sapere se poi il nostro sindaco lo fa. I sindaci dovranno darne conto nel bilancio. Avranno, per così dire, la base imponibile che è costituita dal numero di abitazioni principali, sapranno quello che è il valore catastale perché l'hanno già visto negli anni scorsi, perché non cambia poi da un anno all'altro, no, il numero di prime case in una città, quindi diranno tante prime case c'erano, tanto è il loro valore catastale, passare da 2,5 a 3,3 ci vale 50 milioni di euro, adesso facciamo il caso di una grandissima città, questi 50 milioni di euro noi dobbiamo tradurli in sconti, ma poi qui la domanda sarà in sconti per tutti, in sconti solo per i poveri e come li definiamo i poveri? In base al reddito, certo. In base al valore della casa e lì ogni comune avrà le sue scelte. Stiamo accorti allora perché qua la situazione è ancora in evoluzione e tra l'altro una situazione di confusione anche per i poveri sindaci, perché questo dobbiamo dirlo, no? Ah, sicuramente, soprattutto nei piccoli comuni dove non ci sono uffici finanziari e tecnici in grado di elaborare da un giorno all'altro piani complessi. Benissimo, 800 24 00 24 per i vostri interventi. Prima di sentire Mirko Mion metto subito un po' di fieno in cascina, come si dice, e andiamo alle domande degli ascoltatori. Mirko Mion prende appunti per rispondervi, poi andremo proprio al calcolo dettagliato di questo tributo. Abbiamo Marco da Torino e Raffaele da Roma pronti ad intervenire. Raffaele è il primo che si è messo in lista. Raffaele, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, la mia situazione è diciamo semplice, perché poi alla fine non è che abbia una condizione particolare. Ho la prima casa dove ci abito regolarmente in un comune della provincia di Roma e ho una seconda casa che proviene dall'eredità dei miei genitori in comproprietà con mia sorella in un altro comune. Sulla seconda casa, per la mia quota del 50%, ho sempre pagato l'IMU, purtroppo. Per quanto riguarda la TASI, cosa succederà esattamente? Perché è una tassa sui servizi indivisibili del comune di Ciampino, che non è quello dove abito, e di conseguenza chi la paga? Io o mia sorella? E sua sorella abita a Ciampino, Raffaele? Abita in quella casa. Abita in quella casa di cui è proprietaria al 50%. La ringrazio. Adesso sbroglieremo questa matassa con Mirko Mio. Mettiamo anche la domanda di Marco da Torino. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Torino e volevo chiedere due cose. Premesso che immagino che il comune di Torino, data la sua situazione, applicherà l'aliquota al massimo delle sue disponibilità. Come tanti comuni, Marco, perché qua veramente infatti, poveretti sono un po' tutti alla canna del gas, per dirla in maniera poco diplomatica, sì. Certo. Io sono proprietario di prima casa, mi ritrovo ad avere una seconda casa attualmente non locata nella zona di Torino del cantiere di Spina 3, tanto per intenderci, un cantiere oramai eterno che il comune ha dichiarato più volte di non avere disponibilità finanziarie per completarlo. E quindi lei dice comunque non l'affitterò mai. E di conseguenza con una zona svantaggiata commercialmente a fronte del fatto che comunque date determinate situazioni familiari di questa cosa ne siamo ben a conoscenza. E quindi lei dice devo pagare su questa abitazione, su questa proprietà che non utilizzo, che non è fonte neanche di reddito per me, giusto? Esattamente, confermo. Grazie Marco. Allora, Mirko Mion, da che cosa vuole cominciare? Intanto buongiorno di nuovo. Raffaele da Roma, due abitazioni, la seconda a Ciampino, ci raccontava, lui abita in un altro comune, questa seconda casa è in comproprietà al 50% con sua sorella. Come pagano la TASI entrambi? La TASI, come diceva Cristiano Dell'Oste, è esattamente una formulazione analoga a quella dell'IMU, quindi qui come diciamo si scrive TASI ma si legge IMU, è una tassa sui servizi indivisibili e si parte dalla stessa base imponibile dell'imposta municipale, quindi per calcolarla si partirà dalla rendita catastale rivalutata del 5%, nel caso del signor Raffaele parliamo di case di abitazione moltiplicata per il coefficiente che è 160. Si dovrà attendere per fare proprio il veramente preciso. L'IMU travestita da TASI. È un IMU travestita da con TASI. Con un nome di pazzesco. Poco è cambiato, saranno modificate esclusivamente poi quelle che sono i parametri per il calcolo, cioè quelli che saranno le aliquote che verranno definite comune per comune e ogni sindaco potrà, anzi dal 3 di marzo dovrà poi inserire all'interno del portale del federalismo fiscale le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti adottati dai comuni, quindi qui verranno definite le aliquote che potranno andare da un minimo dell'1 fino a un massimo del 3,3, visto che come si diceva con il decreto che dovrebbe entrare in gazzetta ufficiale in questi prossimi giorni potrà essere aumentato dello 0,8 sulla massima aliquota che era stata definita precedentemente del 2,50 e potranno essere inserite laddove ci siano, vengono applicati questo aumento, delle detrazioni che anche qui insomma dovranno essere definite caso per caso, comune per comune, quindi verificata in modo puntuale la delibera. Quindi dovrà pagare, signor Raffaele, la nuova imposta, non dovendo più dover pagare l'IMU sulla sua abitazione principale, e dovrà intervenire allo stesso modo con analoghi calcoli a quelli dell'IMU anche per la sua porzione di proprietà della casa dove attualmente, se ho ben capito, risiede la sorella in Ciampino. Stessa situazione anche per Marco da Torino, che ha sentito, lui ha questa seconda casa di proprietà che non riesce neanche a mettere in affitto perché è in un'area di Torino che non soddisfa eventualmente potenziali affittuari. Però questo insomma non è, pagarle interamente, avrebbe avuto la possibilità laddove ci fosse all'interno un inquilino, una porzione di questa imposta poteva essere, a seconda anche qui della delibera del comune, diciamo così, addebitata all'inquilino in una misura, in un range tra il 10 e il 30%. Quindi qui la grande difficoltà sarà poi quella di andare a leggere tutti i vari regolamenti comune per comune. Io ritengo che sarà ancora più complicata l'applicazione della TASI rispetto all'IMU. Ecco, mi vuole specificare? Volevo fare una considerazione direi importante, perché se l'embrione di questo calcolo, dicevamo che la formula è uguale a quella dell'IMU, la base imponibile è parte dalla cosiddetta rendita, noi crediamo che per intraprendere una giusta direzione di partenza bisognerebbe partire da una revisione di quella che è la tanto agognata revisione del catasto. Allora Mion, guardi, siccome questo è sempre tutto nell'ordine del condizionale, noi adesso dobbiamo spiegare agli ascoltatori quello che abbiamo e quello che devono fare da qui a fine giugno, dopodiché su tutto quello che si potrebbe fare, sa com'è, potremmo aprire un dibattito dalle 8 del mattino alle 9 di sera, perché di cose da fare ce ne sarebbero tante. Mi vuole specificare meglio la questione dell'addebito all'inquilino? Se una persona dà una casa di sua proprietà in affitto, in che misura viene questo addebito e soprattutto quando viene prelevato, arriva anche all'inquilino un bollettino a casa, deve lui fare un calcolo da solo, come si disciplina la relazione fra proprietario ed affittuario in questo caso? Allora, anche sugli immobili affittati quindi c'è la combinazione IMU più TASI, con il limite massimo dell'11,4 per mille, tenuto conto di questa maggiorazione eventuale dello 0,8. La differenza è che la TASI viene pagata anche, come dicevamo, dall'inquilino per una quota compresa tra 10 e il 30, a scelta però del comune. Quindi se l'IMU viene invece pagata interamente dal proprietario, come sempre, negli incasi dove c'è un inquilino, l'inquilino dovrà intervenire per una percentuale. E qui siamo in attesa dei, esatto, quindi parliamo, vari regolamenti. Parliamo di percentuali, Mion, non è che se c'è un appartamento in affitto è tutto a carico dell'inquilino o tutto a carico del percentuale, c'è una compartecipazione in questo caso. Tra il 10 e il 30%, perfetto. Quindi ipoteticamente se ci fosse una TASI di 200 euro, una quota tra 20 e 60 euro andrebbero poi eventualmente sostenute come costo da parte dell'inquilino. Benissimo, quindi abbiamo risposto anche a Roberto da Treviso che ci ha scritto alla posta elettronica. Cristiano, volevi completare questo ragionamento? Sì, perché intanto che parlava Mion, che tra l'altro saluto, ho verificato le delibere ovviamente del 2013, perché 2014 non esiste nulla, sia per il comune di Ciampino che quello di Torino. Ottimo. Che sono i due dove Grazie. C'erano le case dei Bravissimo. Nostri Bravissimo, guarda qua che ricerca qua in diretta. Ecco, allora, in entrambi i comuni, così vediamo in generale cosa può succedere, nel 2013 l'IMU su queste seconde case, in entrambi le situazioni sono seconde case sfitte dal punto di vista dell'imposta, era già al livello massimo, quindi 10,6 per mille. Allora, senza l'intervento del governo, siccome la somma di IMU e TASI, secondo la vecchia formulazione della legge di stabilità, era 10,6, non sarebbe capitato nulla. Cioè il comune poteva decidere di imputare una parte del tributo a TASI, ma il totale non cambiava per il cittadino. Magari c'era la complicazione di dover fare due pagamenti. Invece, adesso che il governo ha dato la possibilità di aumentare l'aliquota, quest'anno potranno arrivare in entrambe le città i proprietari a dover pagare un totale complessivo dell'11,4 per mille anziché il 10,6. Se il comune tiene l'IMU al 10,6, allora la TASI sarà solo dello 0,8 per mille. Scenario probabile quanto? Abbastanza, perché potrebbe essere così. Sarebbe la via più semplice. In alternativa, il comune potrebbe abbassare un po' l'IMU e alzare la TASI oltre lo 0,8, arrivando sempre all'11,4 di totale. Per un proprietario di una seconda casa sfitta non gli cambia nulla. Quello che cambia è per il proprietario della seconda casa affittata, perché lì abbiamo visto che c'è la quota dell'inquilino. Quindi per un proprietario di una casa affittata, a parità di prelievo complessivo, gli conviene che sia un po' più alta la TASI, perché così ne paga un po' di più l'inquilino. Secondo te, guarda, ci mettiamo la domanda, adesso devo fare anche la borsa, di Mario da Bollate, per ancora chiarire ulteriormente la questione proprietario-inquilino, e così la chiariamo, spero, una volta per tutte. Se sarà necessario lo rifaremo ancora. Mario, buongiorno. Mia domanda è parzialmente, l'ho già sentito la risposta, però volevo dire, se la TASI è una tassa sui servizi, se un appartamento ha a disposizione o in affitto, chi utilizza i servizi in affitto è l'inquilino. I lampioni, le fognature e quant'altro, Mario. E quindi dovrebbe essere legato come la TARES, come la tassa rifiuti. Se è affittata, la paga chi è in affitto. Mario, qua un'altra questione nell'ordine del condizionale. Ha ragione Mario? Mirko Mion, che ne pensa? Ma io penso che fondamentalmente Mario potrebbe aver ragione nella misura in cui alcuni servizi, come citava Cristiano Dell'Oste, che a mia volta risaluto, sono fruibili esclusivamente da colui che vive all'interno di questa comune, però ci sono dei servizi che comunque a prescindere l'abitazione usufruisce anche indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia all'interno un inquilino. Mi vengono in mente le pulizie delle strade, cioè che io abbia l'abitazione in un comune e non sia locata, comunque quando mi reco in questa casa che ci sia pulizia attorno è una cosa che ritengo assolutamente importante. Quindi io credo che questa misura, con questo range che eventualmente potrebbe essere più ampio, dal 10 al 50, dal 10 al 40, ma comunque qui apriamo una serie di ipotesi, sia corretto e coerente con una sorta di norma generale. Grazie, prenda fiato, lo prendo anch'io per un attimo, ma non tanto, perché devo fare la borsa, e quindi ancora un minuto di pazienza sia a Mirko Mion che a Cristiano Dell'Oste, e poi daremo spazio alle tantissime telefonate da parte vostra che ci stanno arrivando. Sono pronti Nello dalla provincia di Salerno, Stefano da Roma. Adesso dopo avervi ricordato che potete continuare a chiamare all'800 24 00 24, vediamo un po' cosa succede sui mercati finanziari. Cuore e denari. Trise, Tari e Tasi. Che sembrano delle malattie. Chi li ha scelti i nomi? Luciano Onder? Che cosa è la trise? È vero che se non curata può degenerare in tasi? Questo continuo acuirsi della trise taritasi può provocare l'ingrossamento della prostata, la famosa prostata tasi. Uno sketch perfetto per Cuore e Denari, quello di Maurizio Corazza, mi fa impazzire sotto Floris che ride, che si sente. Insomma, Cristiano, tra l'altro, la trise c'è ancora? No, adesso Gallo, è diventata Yuk. Cioè, ovviamente imposta unica comunale, che poi non è unica perché contiene dentro IMU, TASI e TARI. Benissimo, allora noi lo avrete capito, oggi parliamo di tasse, l'argomento che mette tutti d'accordo, perché mette tutti di cattivo umore. Anche il 2014 non risparmierà sacrifici, siamo in attesa di capire quanto i sindaci ci faranno pagare di TASI, la tassa comunale sui servizi indivisibili, vale a dire la nostra quota per garantire il funzionamento dell'illuminazione pubblica, il lavoro ai vigili urbani, Cristiano, le fognature anche, no? Perché perché c'era un ascoltatore che ce lo chiedeva, perché qua poi dobbiamo anche vedere con i rifiuti come si rapporta. Ma sì, diciamo però una cosa, che questo è un po' il pretesto con cui la norma è stata istituita. Poi all'interno del bilancio comunale il gettito della TASI non sarà vincolato esattamente a queste spese, quindi se il comune per l'illuminazione pubblica spende 100, non è che quei 100 dovranno poi essere tutti coperti con la TASI, certo. La TASI andrà ad alimentare il bilancio nel complesso, questo bisogna ricordarlo. Serve, questo è un po' il criterio con cui è stata introdotta, se vogliamo dirla in modo cattivo, un po' la scusa con cui è stata introdotta, però serve appunto ad alimentare il bilancio complessivo del comune. Altro è invece il discorso dei rifiuti, perché lì c'è la TARI e lì è più un principio comunitario, cioè che deriva dall'Unione Europea, per cui la TARI ha più la funzione di una tariffa, diciamo così, quindi si deve pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti e quello che viene incassato dal comune o dalla società che gestisce i rifiuti deve coprire i costi del servizio, quello è un altro discorso. Qui c'è stata qualche rimodulazione tra l'altro? E qui si cambia perché l'anno scorso si doveva pagare la TARES, poi in realtà sono pochissimi i comuni che hanno fatto la TARES, per lo più si è pagata ancora la TARSU e da quest'anno si passa alla TARI, che è appunto la tassa sui rifiuti. In realtà da un punto di vista di quanto si paga, anche in questo caso bisognerà vedere cosa decideranno i comuni, ma non dovrebbe cambiare moltissimo perché mancano ancora i criteri per quantificare in modo esatto la quantità di rifiuti prodotti. Ecco, le è venuta voglia di candidarsi come sindaco da qualche parte, Mirko Mion, magari lì nel torinese dove sta lei? Non invidio i sindaci di quanto saranno chiamati a fare per trovare un equilibrio nei vari bilanci, in questo ginepraio delle varie tasse sugli immobili sulle quali insomma cercano poi di far quadrare i loro conti. Noi abbiamo già abbastanza da fare nel riuscire ad applicare correttamente e coerentemente la norma, che è in continua mutazione e che ci impone cambi di passo repentini, dando, come dire, non soltanto segnali a tutti i nostri geometri che sul territorio italiano fanno assistenza nel comparto immobiliare, soprattutto i nostri geometri fiscalisti nel comparto della fiscalità immobiliare, ma anche ai cittadini che chiamano numerosi in associazione per avere delle risposte. Vi faccio un po' di pubblicità, come vi possiamo contattare? Allora, intanto come si usa oggi nell'era 2.0 della comunicazione, noi abbiamo tutta una serie di social network che passano dalla pagina Facebook del geometra fiscalista, Twitter. Ammettendo che la vecchietta di 100.000 euro di botte di Del Rio non abbia la possibilità magari non vuole andare a un CAF e si è un po' stuzzicata questa mattina dalla vostra presenza a Cuore Denari, come vi può contattare? Ma ci può contattare tranquillamente telefonando il numero che appare sul nostro sito di www.agefis.it oppure chiamandoci allo 0125 616574. Noi come sempre cercheremo di dare una risposta quantomeno di sistema, non in particolare. Certo. La vecchietta e tutti i cittadini dovranno avere la pazienza come noi di attendere, come abbiamo detto finora, le varie delibere dei vari regolamenti e quindi benissimo, le condizioni applicabili comune per comune. Continuiamo con l'ABC allora di questo tributo per capire chi, come, dove, quanto si paga. Nello dalla provincia di Salerno, 800240024, stamattina vorrei cercare di accontentare quanto più ascoltatori possibili. Nello, buongiorno, poi sentiremo Stefano da Roma. Nello. Salve, buongiorno. Eccoci qua. Allora, io abito a Ponte Gagnano Faiano, sì? Provincia di Salerno. Siccome che il buon sindaco Ernesto Sica ha alzato la rendita catastale, io avendo una casa piccola non sono rientrato di pagamento dei IMU. Esenzione. Patate. Nello, aspetti lì. Allora, Cristiano, quali edifici, quali immobili sono esenti da questo pagamento, senza aprire la parentesi sulla polemica della Chiesa, perché qua ci sembra che non vogliamo infierire un po' sui nostri ascoltatori, però ecco, una serie di 5 milioni di abitazioni, se non ho letto male dal Sole 24 ore nei giorni scorsi, sono esenti dal versamento? Sì, dovrebbero essere esenti, nel senso che questa è una stima. Perché dico dovrebbero? Allora, di abitazioni principali ufficialmente esentate dalla TASI, così come ufficialmente esentate dall'IMU, non ce n'è per legge, a meno che non ci fossero comuni che avevano deciso di alzare la detrazione IMU fino ad azzerare l'imposta. Capitava però con l'IMU che, siccome c'era una detrazione fissa di 200 euro che ricordavamo prima, le case con una rendita catastale molto bassa facevano sì che la detrazione azzerasse del tutto l'imposta dovuta. Con la TASI al momento questo non può succedere perché nella formulazione standard le detrazioni non ci sono. E infatti il rischio, una delle tante storture della TASI, è che con questo meccanismo finiscano per pagare di più proprio le case che hanno un valore catastale più basso. Ecco perché allora, per correggere questa potenziale stortura, il decreto della scorsa settimana del governo consente da un lato di alzare l'aliquota, ma dall'altro di introdurre le detrazioni. Quindi nel caso dell'ascoltatore bisognerà vedere se il comune tenderà a replicare, per quanto riguarda la TASI, la stessa impostazione che aveva adottato con l'IMU. Benissimo. Se i conti lo consentiranno, potrebbe trovarsi a non pagare. Entro quanto ce lo faranno sapere i comuni, Cristiano? Allora, entro quanto? Qui è un problema di chiusura del bilancio. Adesso aspettiamo che vada in gazzetta il decreto. Se non ci saranno altre modifiche, non dovremmo arrivare alla situazione dell'anno scorso, quando i bilanci comunali sono stati chiusi a fine novembre. Quindi possiamo sperare ragionevolmente di saperlo entro giugno per la totalità dei comuni, sarebbe entro fine maggio, via. Anche perché a giugno si deve pagare, questo ancora non l'abbiamo detto. Questo non l'abbiamo detto, ma perché non si sa. Ecco, potrebbe anche essere che non è così, no, allora, che ci lasciano un po' di soldini per andare in vacanza. Facciamo un discorso, il decreto del governo, appunto, adesso in attesa di vedere la formulazione finale, dice questo, che i comuni dovrebbero adottare di norma, dice il decreto, una riscossione di questa imposta TASI su base almeno semestrale, quindi due rate da sei mesi, consentendo di pagare per chi vuole tutto nella prima rata. Tutto nella prima rata. Allora, siccome per quanto riguarda l'IMU abbiamo un termine di legge che è il 16 giugno, logica vorrebbe che almeno una delle rate della TASI venisse accorpata al 16 di giugno. Però, così come è scritto, un comune potrebbe decidere anche di adottare due rate semestrali, mettiamo 1° giugno e 1° dicembre, e sarebbe comunque a norma di legge, dando la facoltà a chi vuole di pagare tutto il 1° giugno. Spezzettando però il pagamento magari in giugno dell'IMU e della TASI, secondo te? Eh sì, potrebbero anche esserci scadenze diverse. Diciamo che, come ti dicevo, logica e buonsenso imporrebbero che i comuni accorpassero le scadenze, rilancio, non che le moltiplicassero. Il messaggio di Nicoletta, sindaci, vedete un po' voi, io mi rendo conto che non avete vita facile, però mettetevi la mano sul fuoco, sì, sul fuoco, sul cuore, ma sul fuoco non ce la metto, che ve la mettiate, però per questi poveri, io mi metto nei panni di tanti anziani, insomma, che già io non ho capito granché, e spero appunto che Pisapia ci renda la vita semplice, però insomma quantomeno accorpiamo i due versamenti. Allora, 800 24 00 24, adesso andiamo. Allora, volevo salutare Fabio, che è un nostro amico che ci scrive su Facebook, è un mio amico che è disperato perché trova il centralino sempre occupato e vuole intervenire. Adesso Fabio, dammi un attimo di tempo che vado in pausa a sentire i suggerimenti perché in viaggio, chiamo Marco, il mio assistente, viene a prendere il numero di telefono e poi ti facciamo intervenire, perché qua nella Maremma c'è un po' di scontento per queste novità fiscali sulla casa. Andiamo a Stefano da Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. La ringrazio. Senta, la mia richiesta era questa. Questa nuova tassa sulla casa avrà le stesse detrazioni dell'IMU, praticamente 200 euro e 50 euro per ogni figlio. Però la mia domanda è questa: se io ho un figlio di 25 anni e lavora e ha un reddito e vive con me, mi porta in detrazione ugualmente le 50 euro, quando poi una famiglia che ha uno stesso figlio di 25 anni e non lavora si porta anche lui 50 euro in detrazione. Praticamente io trovo iniquo. Una cosa iniqua, perché dovrebbe essere basato sul reddito di famiglia. Allora Stefano, la ringrazio. Intanto, se non mi ricordo male, Cristiano ci hai detto prima che ancora sul sistema di detrazioni non c'è nessuna disciplina ufficiale. Dovranno decidere i comuni. Potremmo anche in teoria avere dei comuni che non aumentano l'aliquota e non mettono le detrazioni. Mentre sul discorso del figlio, sì, quello che dice l'ascoltatore è corretto, nel senso che questa era la disciplina che valeva per l'IMU nel 2012 e nel 2013 per chi l'ha dovuta pagare sotto forma di mini IMU. È stata criticata molte volte questa disposizione, perché chiaramente ci può essere un figlio che ha più di 26 anni e non lavora e un figlio che ne ha meno e lavora, però così era stata scritta dal Premier Monti alla fine del 2011 e così è rimasta. Se si impegnassero insomma un po' di buoni aggiustamenti, nonostante questo nuovo ginepraio fiscale, potrebbero farne. 800 24 00 24 è tempo di sentire cosa sta accadendo su strade e autostrade italiane. Siamo pronti, Filippo? Sì, ok. Cuore e denari. A me sembra che la TASI per l'imprenditore sia un bel risparmiato. Sì, adesso ho visto dei numeri anche oggi, sembra un'altra volta, però invece sorrido, ma non c'è molto da sorridere. Allora, mi scuso per la qualità del contributo, ma in ogni caso abbiamo voluto riprendere quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente di Confindustria Squinzi, perché giudica giustamente questa TASI un'altra botta, come avete sentito, sulle imprese. Cristiano Dell'Oste, è così? Per che tipo di carico arriverà e su quali tipologie di imprese? Sì, rischia di essere così, perché questo famoso aumento di cui abbiamo parlato più volte, dello 0,8 per mille dell'aliquota che potrà essere applicato dai comuni per finanziare le detrazioni sull'abitazione principale, potrà essere applicato su tutti i tipi di immobile. Quindi gli sconti sulla prima casa potrebbero pagarli mediante un rincaro d'imposta, mm-hmm. i negozi, i capannoni, gli uffici, e questo è un rischio, perché su questi immobili il prelievo è già aumentato l'anno scorso, perché su quelli del gruppo catastale D c'è stato un aumento del moltiplicatore che ha fatto crescere dell'8% la base imponibile, e perché sempre per un meccanismo piuttosto complicato di distribuzione del gettito che è entrato in vigore sempre l'anno scorso, sono state un po' travolte tutte quelle piccole agevolazioni che i comuni avevano potuto prevedere nel 2012 per gli immobili d'impresa. Quindi si tratta di una categoria di fabbricati che è già pesantemente colpita e che, sempre in chiave elettorale, perché poi chiaramente pesano di più i voti delle famiglie che non i voti delle imprese da un punto di vista proprio numerico, c'è il rischio che anche quest'anno alla fine lo sconto sugli immobili delle famiglie venga fatto pagare alle imprese. Certo. A proposito di niente, le case di lusso, quindi rendite catastali molto alte che hanno continuato a versare l'IMU in questi anni, sulla TASI cosa succederà? Ecco, brava per questa precisazione, perché non le abbiamo citate prima. Le case delle categorie catastali A1, A8 e A9, quindi castelli e dintorni, insomma ville di certo pregio. Esatto, parliamo di circa 70.000 abitazioni in tutta Italia. Allora, se queste case sono abitazione principale, nel 2014 continueranno a pagare anche l'IMU oltre alla TASI, e avranno appunto, quindi c'è una cosa in più per loro, c'è una cosa in più, e avranno un'aliquota massima di IMU e TASI che sarà data dall'aliquota massima che aveva l'IMU nel 2013, quindi 6 per 1000, più l'aumento che ora il governo consente di fare, quindi 0,8. Perciò su queste abitazioni qui ci potrà essere un prelievo massimo del 6,8 per 1000. Parliamo però davvero di una piccola minoranza di case. Ecco, però una riflessione che si può fare, perché vedo che stanno lanciando questa considerazione anche molti ascoltatori, sia nei nostri messaggi, sia all'800 24 00 24, che comunque il panorama della fiscalità sulla casa non è proprio un terreno dove il governo o lo Stato ha intenzione di fare chiarezza. Allora io mi chiedo, secondo te Cristiano, tu sei un giornalista, Mirko Mion è geometra fiscalista, quindi siete comunque due tecnici in qualche modo, valutate con, come dire, considerazione di buonsenso l'andamento del mercato immobiliare, ma tutto questo un po' non lo rilancerà di certo quest'anno. Ma diciamo che il mercato immobiliare, adesso qui facciamo un discorso un po' più generale, perché le vendite di abitazioni sono quasi dimezzate rispetto ai livelli... Al top del 2008, del 2006. Sì, rispetto ai livelli precrisi. 850.000 compravendite, il record degli ultimi anni. Infatti, e quest'anno saremo sotto di oltre il 40%. Sì. Quindi questo entriamo in un contesto di grande difficoltà. Se poi parliamo di affitti, abbiamo anche un fenomeno di morosità crescente, su cui non ci sono dei numeri precisi, ma è dato... come in crescita da tutti gli operatori. Certamente aumentare le imposte non aiuta il settore a riprendersi. Peraltro bisogna dire che sempre su questo fronte sono intervenuto prima il governo Letta con l'aumento delle detrazioni fiscali per chi ristruttura, e poi notizia di questi giorni, mercoledì prossimo dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri finalmente il decreto sulla casa che il ministro Lupi aveva iniziato a preparare già nei mesi scorsi. Poi una domanda su questo. E che potrebbe, ad esempio, tra le altre cose, abbassare l'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato. Sì. Quindi non su tutti gli affitti, ma sui canoni concordati. Prepariamo tante altre belle puntate. Scusatemi per la domanda sciocca che sto per fare, me ne scuso, però mi è sfuggito. Ha qualche delega speciale, Lupi, che io non mi ricordo? Perché è l'infrastruttura? È il Ministero delle Infrastrutture che fa il provvedimento sugli affitti sulla casa, non è il MEF? Allora, perché diciamo, se parliamo solo di fisco, come la cedolare, dovrebbe rientrare nella competenza del MEF. Però dentro a quel pacchetto, dentro a quel pacchetto casa, dovrebbero esserci anche una serie di misure per gli investimenti dell'edilizia abitativa. E quindi mettono tutte insieme. Che sono storicamente sempre affidate al Ministero dei Lavori Pubblici, perfetto. Quindi poi infrastrutture. Quindi facendo un discorso unico finiscono nel pacchetto. Hanno razionalizzato in questa maniera. Però non ti nascondo che uno dei punti che hanno ritardato l'approvazione del decreto è proprio la copertura finanziaria su cui il MEF ha dato l'alt alle infrastrutture. Ottimo. Quindi il Ministero dell'Economia c'entra. In qualche maniera c'entra. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta, siete tantissimi stamattina, siamo ben contenti, sono pronti Luca da Roma, Nello da Como, ma abbiamo acciuffato Fabio, mio amico toscano, perché proprio credo volesse fare qualche riflessione sul tema dell'andamento del mercato immobiliare. Tutto questo un po' anche per chi ha come dire un po' l'idea, accarezza il sogno di comprarsi la casa della sua vita o magari la sua seconda casina al mare. Fabio, tutto questo regime fiscale così complesso sicuramente scoraggia. Che dice? Sì, salve Deborah, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, la prima considerazione che mi è venuta è che sicuramente avere una casa oltre la prima è una bella iattura più si va avanti, quindi onestamente diventa molto più semplice alienarla e liquidare, perché qui per come sta andando le cose è veramente complicato. Faccio un piccolo inciso però relativamente alla Tari, perché i tuoi ospiti hanno parlato che dovrebbe essere una tariffa. Secondo me, io vedo in Toscana, nelle città, nella città dove vivo, anche in altre, ormai da tanti anni noi selezioniamo i rifiuti, dall'organico a tutto il resto, con un'attenzione estrema, e pagare solo in base ai metri quadri è veramente una grande ingiustizia. Ecco, questa era un'altra cosa che volevo dire. Fabio, grazie molte per queste sollecitazioni che continuiamo a commentare. È una considerazione che facciamo tutti questa, no Cristiano? Ma questa è una considerazione che fa anche l'Unione Europea, che infatti impone agli stati, anche se poi i tempi di adeguamento sono lunghi, di adottare il principio del chi inquina paga, che è quello sostanzialmente di legare l'importo della tassa, della tariffa, al quantitativo di rifiuti prodotti. Pensiamo che questo può avere poi delle ricadute ancora più rilevanti per tutte le attività economiche, per i negozi, perché anche qui un ufficio e un negozio, a seconda del tipo di attività, possono avere una produzione di rifiuti diversissima. Invece adesso questa nuova disciplina è proprio le attività commerciali, le ha messe, non dico quasi in ginocchio, ma siamo molto vicini. Sì, anche se adesso si lavora non tanto sulla produzione ma su degli indici teorici, cioè ci sono delle tabelle per cui se tu sei uno studio legale si sa che indicativamente avrai una certa produzione di rifiuti, però poi puntualmente quanti ne produci quello non ti viene ancora misurato. 800 24 00 24 per continuare i vostri interventi, abbiamo ancora 5 minuti di tempo, poi vi dedico anche gran parte della seconda parte della trasmissione. Avevo Nello da Como che volevo sentire perché introduce un altro ambito, quello delle aree fabbricabili, no Nello? Buongiorno. Esattamente, io ho avuto problemi diciamo così con piuttosto rilevanti per una, per così dire, un piano regolatore in una località che io non frequento. C'era mia madre, è morta mia madre che faceva l'agricoltrice, poi è morta, siamo succeduti noi come fratelli e poi ci siamo trovati a distanza di 5 anni da pagare un sacco di imposte su un'area ritenuta, no, assolutamente diciamo approvata come piano regolatore generale edificabile, per la quale abbiamo avuto notizia in quel contesto. Non abbiamo sviluppato nulla perché era rimasto, c'erano olivi, c'erano frutta, quindi è rimasto un terreno agricolo, né più né meno. Quando la nostra valle è morta è continuata così la cosa. Adesso noi ci troviamo a pagare questa roba su una superficie edificabile mai edificata e mi domando, ma queste tasse si applicheranno con la stessa modalità anche sulle superfici edificabili? Cioè, Nello, intanto quanto le costa questo scherzetto adesso? 22.000 euro. No, perché abbiamo pagato 4 anni insieme. Certo, quindi altrimenti sarebbero 5.000, ecco, buttiamone via. Nello, grazie. Mirko Mion, andiamo sul tema delle aree fabbricabili ed edificabili. Nulla è cambiato sulle aree fabbricabili perché la nuova normativa non è andata ad incidere assolutamente sulle aree fabbricabili, quindi di fatto è intervenuta esclusivamente per andare a normare quella che era la cosiddetta applicazione dell'IMU sull'abitazione principale con la sostituzione, come abbiamo avuto modo di capire nei vari interventi, della TASI, mentre sulle aree fabbricabili allo stato attuale il signor Nello, mi pare, sì, non ha nessun tipo di peggioramento né di miglioramento, a meno che il proprio comune non vada a modificare le aliquote di applicazione sul terreno, certo, di loro proprietà. Io volevo, se mi è permesso, agganciarmi a quanto diceva il signor Fabio, mi pare, no, sulla questione anche legata alla alla chiatura, sì, dell'ottenere un immobile. Noi abbiamo fatto un'analisi che tiene proprio conto di questo cambiamento sociodemografico e che indica che, guardando un po' con gli occhi del bambino nel futuro della proprietà immobiliare, effettivamente si sta modificando quello che è il concetto di tassazione immobiliare. Cioè, se è vero che dobbiamo guardare entro giugno, ma il legislatore dovrà immaginare una base imponibile completamente diversa, perché l'italiano medio non sta più investendo e c'è un forte decremento quindi della compravendita immobiliare, proprio perché uno degli elementi che incide negativamente su questo comparto è non soltanto l'imponenza della tassazione immobiliare, ma anche la grande confusione. Esatto, l'incertezza, perché tu compri una casa oggi, non sai non quello che pagherai l'anno prossimo e come lo pagherai, ma addirittura cosa succede nello stesso anno, no? Almeno comunque le tasse sulle compravendite sono diventate un po' più razionali, magari, Cristiano, poi se ce la facciamo anche un punto su quelle. Ma direi di rimanere sul terreno seminato questa mattina, la TASI. C'è un ascoltatore, Ciro, ci scrive al 349-238-6666. Io abito in affitto in una casa di proprietà della Chiesa. Devo pagare o no, Cristiano? Allora, lui è un inquilino, sì, quindi sull'IMU non paga nulla. Sulla TASI, in quanto inquilino, ne pagherà dal 10 al 30% in base all'importo che deciderà il comune. Casa di proprietà della Chiesa? Beh, non vuol dire, perché in quel caso è un'attività commerciale, se è un affitto. Certo. Quindi le attività commerciali, anche se possedute dalla Chiesa o da altri soggetti no profit, pensiamo alle fondazioni, comunque devono pagare, perché è un'attività a tutti gli effetti, di mercato. Altra osservazione flash: cosa succede per quei comuni, abbiamo 20 secondi, che andranno alle urne a maggio, scrive un ascoltatore, e magari non avranno deliberato nulla nel frattempo? Delibereranno dopo. Il sindaco, perché la prima cosa che deve fare è quella. Assolutamente, sì, ma con ogni probabilità verrà deliberato, certo, prima. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva. Era molto carina, ma anche molto tassata questa casa, prima, seconda, il ginepraio delle norme naturalmente che gravano sulle nostre abitazioni, sia che siano quelle principali, sia che siano quelle delle nostre vacanze, e adesso arriva la TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, con anche la facoltà data dal governo ai sindaci di aumentare le aliquote scelte, che probabilmente, presumibilmente faranno. Come funzionerà questo tributo? Mi ha parlato nel corso di tutta la prima parte della nostra trasmissione, adesso continuiamo a chiarire gli aspetti ancora non chiari ai nostri ascoltatori. 10 minuti di domande a tamburo battente, e quindi 800 24 00 24 per tutte le vostre curiosità, a cui risponderanno Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, Mirko Mion, presidente di AGEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Però una cosa c'era rimasta in sospeso, Cristiano, ne parlavamo a microfoni spenti. Ecco, come conosceremo l'importo? Perché negli ultimi anni abbiamo dovuto cimentarci anche nel calcolo dell'IMU per chi la dovesse pagare. Non arrivano generalmente i bollettini a casa, qualche sindaco quando lo fa è davvero molto, molto generoso. In questo caso, secondo te, come si orienteranno? Certo che se delibereranno molto tardi, e chi vedrà i bollettini prestampati e precompilati? Eh sì, il problema è proprio quello: capire se la normativa rimarrà stabile da adesso fino alla fine dell'anno. Probabilmente i comuni che vorranno farlo avranno anche il margine per calcolare e mandare a casa dei contribuenti i modelli F24 precompilati o i bollettini precompilati. Se non sarà così, si farà, diciamo, come si è fatto con l'IMU, quindi si dovrà calcolare per proprio conto o con l'aiuto di un professionista l'importo da pagare e poi andarlo a versare o col bollettino o con il modello F24. Certo. Prima ho parlato dei geometri fiscalisti, ma naturalmente ci sono tante figure professionali che possono aiutarci a fare questo calcolo. Abbiamo gli uffici uffici tecnici dei comuni, Cristiano, i centri di assistenza fiscale, dove certo. possiamo indirizzare i nostri ascoltatori, anche per capire in questo momento quale può essere la loro possibile situazione. Beh, diciamo che i professionisti sono tutti coloro che in qualche modo seguono la compilazione della dichiarazione dei redditi, quindi dai CAF per i dipendenti ai commercialisti, passando per i geometri fiscalisti nel caso. Tra l'altro molti anche simulatori, qualche motore di ricerca magari potrà anche permettere. Sul sito del Sole 24 Ore, adesso parliamo di IMU perché ovviamente sulla TASI non c'è ancora spazio, abbiamo pubblicato il calcolatore del tributo elaborato da Anutel, che è l'associazione di riferimento dei comuni italiani, che consentiva appunto di calcolare l'imposta e di andare poi a stamparsi il modello F24. Problema sono sempre le delibere locali, che vanno analizzate una ad una e inserite manualmente all'interno anche del software più sofisticato. Certo. E questo chiede tempo. E 800 24 00 24, approfittate ancora dei prossimi 10 minuti. Luca da Roma, buongiorno, mi scusi per prima, qua il tempo mi è sfuggito di mano. Eccoci a lei. Non si preoccupi, buongiorno. Io volevo avere un chiarimento che non è tanto sulla normativa, ma sulla ragione. Perché se una persona ha una casa e non vi risiede, quindi non è prima casa, e quindi implicitamente, onestamente non fa finta di risiedervi, deve essere tassato, da quello che sto sentendo questa mattina, più di ogni altro, perché verosimilmente questa persona abiterà altrove, pagherà un affitto, quindi sarà tassato come un proprietario di seconda casa in quanto proprietario. In più pagherà più tasse come affittuario. Mi sembra una logica un po' insieme a tante altre questioni appunto di iniquità che questa mattina molti suoi colleghi, Luca, hanno sollevato. Vado a Mirko Mion, poi Cristiano chiedo anche a te un commento su questo. Mion. L'ascoltatore, voglio dire, da un punto di vista della sua posizione esprime un concetto ragionevole. Peccato che questa che viene chiamata imposta di fatto sia una patrimoniale e quindi venga applicata su quello che è il concetto di proprietà, indipendentemente poi che uno vi risieda o non vi risieda. Le uniche differenze, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni di applicazione dell'IMU prima e della TASI oggi, passano attraverso una diversa applicazione a seconda se è concettualmente abitazione principale o no. Qui credo valga anche la pena di ricordare, anche per rassicurare un po' gli ascoltatori, che qual è il concetto dell'abitazione principale, che non è soltanto il senso stretto di colui che lo possiede, vi dimora e vi risiede, ma riguardano anche tutte quelle situazioni parificate, cioè, ad esempio le case dei residenti all'estero e dei disabili e degli anziani ricoverati. Qui di nuovo, se lo prevede il comune, per rientrare sull'argomento dell'autocompilazione, io non vorrei spendere troppe parole per i professionisti, però il concetto non è soltanto di applicazione, di lettura del regolamento, ma è anche di individuazione della corretta applicazione a seconda se non è abitazione principale. Infatti, abbiamo comunque i comodati d'uso, che anche qui soltanto il comune può decidere se parificare o meno l'abitazione principale. È una situazione, diciamo, assai complessa che prevede un'analisi preventiva. Il fisco, quando ci deve mandare in confusione, lo fa molto volentieri. Quando poi deve inseguirci perché abbiamo compilato male un bollettino e dobbiamo restituire qualcosa, ci trovano molto rapidamente e non ne concedono alcuno sconto. Per cui, Cristiano, volevi aggiungere qualcosa sul tema delle assimilazioni, alle quali abbiamo dedicato anche tanto spazio nelle vecchie puntate sull'IMU, no? Sì, l'unica cosa che si può dire è che siccome la normativa TASI richiama la base imponibile dell'IMU e anche le norme sulle assimilazioni, tutto lascia pensare che la stessa possibilità di trattare come abitazione principale le stesse case che venivano trattate al tempo dell'IMU vale anche per la TASI, quindi anche per la TASI il comune potrà stabilire ad esempio che la casa di un residente all'estero viene trattata come abitazione principale. Sono un po' colpita da una mail, ma evidentemente la nostra ascoltatrice non ha seguito la prima parte del programma. Dice: ma a quale anno vi state riferendo, a quali scadenze? La TASI si paga per quest'anno, per il 2014, certamente. Ecco, quindi è nuova di zecca, anche se abbiamo già detto che è qualcosa di vecchio con un vestito nuovo. 800 24 00 24, continuate ancora con le vostre domande, così veramente stamattina penso che siamo riusciti a affrontare quasi tutti gli aspetti di questo nuovo tributo. Maria da Roma, molto veloce se ce la fa, grazie. Buongiorno. Buongiorno Maria, benvenuta. Senta, vorrei sapere se c'è una detrazione. Io abito a Roma in una strada privata. se c'è una detrazione per quanto riguarda la pulizia della strada e la luce pubblica, che a noi non arriva assolutamente. Vabbè Maria, poi tra l'altro lei sa che Roma è in una condizione molto particolare, se proprio la dobbiamo dire tutta, tutte le novità delle quali parliamo stamattina, non abbiamo parlato tra l'altro delle società di riscossione, ma magari lo lasciamo ad un'altra puntata, che tutte le norme di cui parliamo questa mattina sono proprio contenute nel decreto Salva Roma 3. Sì, Salva Roma 3, perché i primi due non sono andati a buon fine. E comunque questo tentativo ce l'hanno fatta. Per rispondere all'ascoltatrice, no, al momento non ci sono detrazioni particolari, bisognerà vedere cosa stabilirà il comune. Certamente Roma, l'hai detto tu adesso, è in condizioni finanziarie diciamo, un tantino complesse, più che precarie. Il dissesto quasi conclamato. E poi questo ricorda quello che dicevamo prima, cioè che è vero l'abitazione in una strada privata, quindi non fruisce direttamente dei servizi da parte dell'amministrazione, ma questa idea che la TASI è una tassa sui servizi indivisibili va intesa un po' in senso lato, certo. Non proprio sui servizi di cui beneficia quel singolo cittadino in quella singola abitazione. Infatti. Maurizio D'Ancona è, come dire, l'emblema molto concreto dell'allarme lanciato prima da Giorgio Squinzi. Maurizio D'Ancona, buongiorno. Chiaramente qua. Buongiorno. Potevo non invitare qualcuno della mia città, ma ci mancherebbe altro. Eccoci qua. Ci dica. Io sono di Castelfidardo. Bravo, bravissimo. Provincia di Ancona, dove si fanno le fisarmoniche ancora. Perché secondo lei io, Maurizio, di dove sono? Lei, sì, provincia di Ancona. No, ma sono di Castelfidardo pure io, l'ho detto mille volte, si era perso. Comunque, detto che non ce ne importa, e pagheremo pure lì, quindi Maurizio ci dica un po'. Allora, dunque, guardi, nel mio paese, nel 2012, la mia attività, che è una sala da ballo, non una discoteca, sala da ballo, sì, per gente da 45 in su, 1200 metri quadri, 1300. Perché ha fatto questa precisazione? Gli altri non possono venire? Quelli un po' più giovani. No. Sa perché? Perché quando poi si parla di discoteche qualcuno magari rimane, capito? Abbiamo fatto anche questa differenza. La mia è una sala da ballo. E quindi cosa allora, paga? 1400 metri quadri, 2012 4600 euro per tassa di rifiuti, 2013 12400 euro, quindi quasi un aumento del 300%. Allora, al sindaco del mio comune io ho detto semplicemente questo, che è difficilissimo pagare una tassa di questo genere con un'attività che lavora due volte alla settimana e produce rifiuti per due volte alla settimana, il sabato e la domenica, ed è aperta 8 mesi su 12. Maurizio, mi saluti tanto Mirko Soprani, che conosco molto bene. Detto questo, salutiamo tutti i sindaci d'Italia che hanno dovuto fare queste scelte decisamente impopolari. Certo, sindaco di questo paese, come quelle di tanti, Cristiano, però ha anche ragione Maurizio, ma da 4.000 a 12.000 è veramente inaccettabile, perché io non posso utilizzare nessun altro termine. No, tra l'altro c'è da dire che aumenti di questo tipo si vedono solo sui rifiuti, nel senso che l'andamento dell'IMU ha portato spesso al raddoppio, ma non con una divergenza così grande tra un'attività e l'altra. Nei rifiuti invece è bastato rivedere le tabelle sulla producibilità, che poi, come dicevamo prima, è astratta, e si possono avere anche aumenti di questo tipo, purtroppo. Io devo andare con la prossima rubrica, vi ringrazio molto, torneremo certamente su questi argomenti da qui a giugno, abbiamo ancora tanto tempo, grazie a Cristiano Dell'Osta, a presto Cristiano. Grazie. Mirko Mion, a presto anche a lei, grazie molte, ma come lei sa, come al solito, le gireremo una marea di mail alle quali ci risponderà naturalmente. Grazie. Sempre a disposizione per voi e per tutti grazie. I radioascoltatori. Adesso salutiamo i nostri ospiti, mettiamo da parte le tasse e la casa, dopo aver parlato di questi temi più che concreti e reali e che toccano i denari di molti di noi, rifugiamoci un po' nelle parole e giochiamo anzi con le parole, come facciamo ogni giovedì con Cuore, Denari e Vitali. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, possiamo fare un grandissimo esercizio di fantasia ogni giovedì, oggi è giovedì e come ogni giovedì è la giornata del nostro appuntamento con Cuore Denari Vitali, un grande scrittore che vi aiuta a cimentarvi nella scrittura. Iniziamo dicendo quali sono i racconti scelti fra quelli inviati la scorsa settimana e le persone, gli autori di questi completamenti dei nostri incipit riceveranno un cofanetto Smart Box. Per il cuore ha vinto Nadia, io dico anche il cognome, tanto siamo autorizzati, Santese, per i denari Roberto Cattaneo. Potete trovare i racconti scelti sulla pagina dedicata all'iniziativa sul sito di Radio 24, dove troverete anche i due nuovi incipit di questa settimana. C'è tempo fino alle 24 di martedì prossimo per completarli con le vostre 2500 battute da inserire sempre con i vostri dati e sempre dalla pagina del sito. Adesso cominciamo con sentire gli incipit di questa settimana, cominciando con quello di cuore. Nel mondo parallelo dell'ostetricia, una gravida, invero ingenuota, si sottopone per la prima volta a visita. È incinta da 3 mesi e cova un sacco di domande circa il suo stato. Ragiona un po' come se la gravidanza fosse una malattia e l'ostetrico, benevolmente, cerca di estirpare tale convinzione con spiegazioni rassicuranti. Peraltro, la gravida dimostra di non avere alcuna cultura in merito e anzi di essere stata condizionata da teorie quantomeno fantasiose circa la luna, piena o no, i cibi, quelli che danno disgusto e quelli che invece si fanno prediligere, la forma che la pancia assumerà, se ad obice oppure a mappamondo. Sciocchezze, risponde l'ostetrico, ma la gravida afferma di aver sentito dire di qualcuno che ha addirittura descritto un parto avvenuto dall'orecchio. Ride l'ostetrico. Le assicuro, afferma, che nessuno può anche solo aver immaginato un'idiozia del genere. Tuttavia, per il cuore la parola da inserire è pensiero. Se non inserite questa parola nel testo, il racconto non potrà essere valutato dalla nostra regia. Andiamo adesso all'incipit di denari. Nel mondo parallelo delle crisi economiche, il Consiglio dei Ministri di un paese si riunisce per determinare senza mezze misure e senza por tempo in mezzo il ripristino delle mezze stagioni. Ogni mezzo sarà lecito per raggiungere l'obiettivo, quello di riportare i consumi, drammaticamente dimezzati, a livello accettabile. Le mezze stagioni porteranno con sé nuove mode, nuove abitudini alimentari, nuove mete per viaggi o vacanze. Le mezze stagioni offriranno soprattutto alle classi di mezzo, le più numerose, la possibilità di sentirsi più vicine alle classi dirigenti e sempre più lontane dalle mezze calzette. In medio stat virtus, declama il Presidente del Consiglio, un ometto mezzo pelato che nel mezzo del cammin della sua vita ha raggiunto l'alta carica. A quel punto si leva la mano del Ministro dei Trasporti. Vorrei obiettare che... E per i denari la parola da inserire è lampione, non ridete, abbiamo parlato di Tasi, io ci ho messo l'illuminazione pubblica. Se non inserite questa parola nel testo, il racconto non potrà essere valutato dalla nostra giuria. E come abbiamo fatto la settimana scorsa con Bruno Gambarotta, questi incipit li vogliamo commentare con un ospite d'eccezione che darà anche preziosi consigli ai nostri ascoltatori. Allora io ringrazio moltissimo per essere con noi questa mattina, purtroppo per pochi minuti, Alessandra Faiella, comica, attrice, scrittrice, ma soprattutto una grande amica di cuore e denari. Alessandra, ciao, buongiorno. Salve, buongiorno. Eccoci. Ciao a tutti voi. In giro per teatri in questo periodo con Stasera Non Escort, e poi ce lo racconti, sì. Ma tu soprattutto conosci Andrea Vitali, perché vi siete incontrati a Bari per presentare ognuno il proprio libro. Che impressione ti ha fatto il nostro amico? Ma mi ha fatto impressione, devo dire. No, Andrea è uno scrittore sui generis molto particolare, perché in realtà non è soltanto uno scrittore, come ben sapete, lui è medico. Sì. E io credo che nell'incipit del primo racconto, quello dei cuori, ci sia un po' di ironia sulla clientela. Credo che Andrea abbia veramente dei casi incredibili tra i suoi pazienti, per cui si conteranno, non si contano gli strafalcioni che fanno, i nomi storpiati delle malattie. Mi sono vista, quando ho letto e ho sentito questo racconto, mi sono vista lui alle prese con qualche bizzarro paziente. E quindi è uno scrittore anomalo, è in realtà uno scrittore medico, e questo fa sì che lui non abbia quei vezzi e vizi tipici degli scrittori, sempre esibizionisti, molto un po' distaccati, no? Da noi un po' distanti, così, un po' sul loro... soprattutto molto... posso usare un termine, che se la tirano. Ecco, invece Andrea è molto tranquilla, è una persona estremamente riservata, certo, timida, molto lontano dallo stereotipo. Alessandra, vogliamo, purtroppo scrittore. Ho solo un minuto, qualche consiglio pratico, esatto, come sempre, qualche consiglio pratico ai nostri provetti scrittori. Allora, per me è difficilissimo continuare un racconto scritto da altri, quindi intanto vi do molto coraggio, vi dico bravi, perché se ci provate siete già persone particolari, intraprendenti. Non è semplice, io resterei nel primo caso un po' su questa sorta di fiabesco, perché è un po', sembra un po' una storia, quasi un racconto russo, no? Con queste immagini suggestive, immaginifiche legate alla gravidanza, quindi resterei su questo confine tra realtà e fantasia, mentre nel secondo racconto forse andrei sulla satira, approfitterei che si parla di governo, di mezze misure, sempre in modo ironico come fa Vitali, però potrebbe essere un buon modo per fare una sterzata un po' di satira politica. Benissimo, dove sei con Stasera non escort? Allora, stasera siamo al Teatro Duse di Bologna, domani a Limbiate, poi l'8 marzo, Festa della Donna, a Bergamo e a Milano 10 e 11 marzo al Teatro Manzoni. E noi ti verremo a seguire. Alessandra Faiella, grazie tante per essere stata con noi e buona giornata, a presto. Grazie a voi. Grazie, io ho terminato, domani non ci sarò io ma ci sarà da sola Nicoletta Carbone, quindi mi raccomando, coccolatemela tanto, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.